Ignorance is power. Hate is crime. Slavery is freedom. Death is life. Nessuno potesse comprare o vendere all'infuori di coloro che portavano.